Ti presento un amico, Giovanni Rodetti. Non lo conosco. Non lo conosci? No, però riesco a dire bene il nome Giovanni. Lodetti Giovanni. Che lo abbraccio. Ciao Giovanni. Ciao, ciao Evaristo, ciao. Tu lo conosci? Tu lo conosci Beccalossi, sì. Io qualche volta l'ho incontrato. Certe volte l'hai incontrato. Senti, se voi non avevate mi viene da dire una parola, dunque la fortuna di trovare un ragazzino da 13 gol, chissà dove eravate a quest'ora. E un presidente che, insomma, aveva bisogno di rilanciarsi anche magari elettoralmente, e quindi andava a Milanello tutti i giorni, praticamente viveva lì. No, però io l'ho avuto uno giovane, Sì. È stato Pierino Prati, no? Sì. Dunque è arrivato proprio anche lui, non giovane come questo, però insomma abbastanza giovane anche lui, ecco. Sì, non so dove può arrivare questo, secondo me è molto in alto. Ma poi tra l'altro ha una qualità, una semplicità che questo va lontano. Beck, ti piace Sharawi? Cioè, il giocatore Giovanni ha fatto una disamina perfetta, è un giocatore completo, e ha la testa sulle spalle, e qua siamo di fronte a un giocatore che, insomma, è di prima fascia sicuramente. L'unica cosa mi dispiace un po' che sta facendo... Che è del Milan? Che? No, quello no Giovanni, anche se avrei preferito l'esplosione, magari tra 6 mesi così stavate ancora un po' più giù. però al di là delle battute... Credo che sia di fronte veramente a un grandissimo giocatore, e mi dispiace vederlo anche correre così tanto, perché questo torna indietro in area, fa il centrocampista, fa la punta, fa i gol, siamo a livelli veramente di un grandissimo giocatore per la sua età.